come il maltempo che ti sorprende nel mese d'agosto, con le divise tra punte di stelle e le piume sopra i cappelli. La masseria era un castello, la paglia è il nostro nido di seta, i suoi capelli sulle mie spalle. Quando il tuono bussava alla porta, c'è una storia perduta, una storia che verrà, è la storia di chi cerca la libertà. Un compagno fugge lontano, un fratello si lava le mani sporche di terra bruciata, le tasche piene di soldi di carta. Quando il fucile era un ombrello e noi bambini perduti nel bosco, il riparo dalla tempesta era la grotta dell'eremita. C'è una storia perduta, una storia che verrà, è la storia di chi cerca la libertà. Quando l'aurora dipinge le foglie, nella corte ci sono due gigli, tra i due gigli brilla un anello, una spada corre nel vento. C'è una promessa da mantenere, una legge da maledire, una druda si veste di gloria, la sua penna scrive la storia. C'è una storia perduta,